Sezione 11 di Il Decameron. Parte prima. Giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Sabina. Il Decameron. Parte prima. Giornata prima. Di Giovanni Boccaccio. Sesta novella. Confonde un valente uomo con un bel detto la malvagia ipocrisia dei religiosi. Emilia, la quale appresso la fiammetta sedea, essendo già stato da tutte commendato il valore ed il leggiadro gastigamento della marchesana fatto al re di Francia, come alla sua reina piacque, baldanzosamente a dir cominciò. Né io altresì tacerò un morso dato da un valente uomo secolare ad uno avaro religioso, con un motto non meno da ridere che da commendare. Fu adunque, o care giovani, non è ancora gran tempo, nella nostra città un frate minore inquisitore dell'eretica pravità, il quale, come che molto s'ingegnasse di parer santo e tenero amatore della cristiana fede, sì come tutti fanno, era non meno buono investigatore di chi piena aveva la borsa che di chi di scemo nella fede sentisse, per la quale sollecitudine per ventura gli venne trovato un buono uomo, assai più ricco di denar che di senno, al quale, non già per difetto di fede, ma semplicemente parlando, forse da vino o da soperchia letizia riscaldato, era venuto detto un dì ad una sua brigata se avere un vino sì buono che ne berrebbe Cristo. Il che, essendo all'inquisitor rapportato ed egli sentendo che i suoi poderi erano grandi e ben tirata la borsa, con gladiis et fustibus impetuosissimamente corse a formargli un processo gravissimo addosso, avvisando non di ciò alleviamento di miscredenza nell'inquisito, ma empimento di fiorini nella sua mano ne dovesse procedere, come fece. E fattolo richiedere, lui domandò se vero fosse ciò che contro di lui era stato detto. Il buono uomo rispose del sì e dissegli il modo, a che l'inquisitore santissimo e divoto di San Giovanni Barbadoro disse: adunque, hai tu fatto Cristo bevitore e vago dei vini solenni come se egli fosse Cinciglione o alcuno altro di voi bevitori ebriachi e tavernieri? Ed ora, umilmente parlando, vuogli mostrare questa cosa molto esser leggera? Ella non è come ella ti pare. Tu n'hai meritato il fuoco quando noi vogliamo come noi dobbiamo verso te operare. E con queste e con altre parole assai, col viso dell'arme, quasi costui fosse stato Epicuro negante l'eternità dell'anime, gli parlava. Ed in breve, tanto lo spaurì, che il buono uomo per certi mezzani gli fece con una buona quantità della grascia di San Giovanni Boccadoro unger le mani, la quale molto giova alle infermità delle pestilenziose avarizie dei chierici e specialmente dei frati minori che i denari non osan toccare a ciò che egli dovesse verso lui misericordiosamente operare. La quale unzione, siccome molto virtuosa, avvegna che Galieno non ne parli in alcuna parte delle sue medicine, sì e tanto adoperò che il fuoco minacciatogli di grazia si permutò in una croce. E quasi al passaggio d'oltremare andar dovesse, per far più bella bandiera, gialla gliele pose in sul nero. Ed oltre a questo, già ricevuti i denari, più giorni appresso di sé il sostenne, per penitenza dandogli che egli ogni mattina dovesse udire una messa in Santa Croce ed all'ora del mangiare davanti a lui presentarsi, e poi il rimanente del giorno quello che più gli piacesse potesse fare. Il che costui, diligentemente facendo, avvenne una mattina tra l'altre che egli udì alla messa uno evangelio nel quale queste parole si cantavano: voi riceverete per ognun 100 e possederete la vita eterna. Le quali esso nella memoria fermamente ritenne, e secondo il comandamento fattogli, ad ora di mangiare, davanti all'inquisitor venendo, il trovò desinare. il quale l'inquisitor domandò se egli avesse la messa udita quella mattina, al quale esso prestamente rispose: Messer sì. A cui l'inquisitor disse: Udis tu in quella cosa niuna della quale tu dubiti o vogline domandare? Certo, rispose il buono uomo. Di niuna cosa che io udissi dubito, anzi, tutte per fermo le credo vere. Udinne io bene alcuna che m'ha fatto e fa avere di voi e degli altri vostri frati grandissima compassione, pensando al malvagio stato che voi di là nell'altra vita dovrete avere. Disse allora l'inquisitore: E quale fu quella parola che t'ha mosso ad aver questa compassione di noi? Il buono uomo rispose: Messere, ella fu quella parola dell'Evangelio la qual dice: Voi riceverete per ognun 100. L'inquisitore disse: Questo è vero, ma perché t'ha perciò questa parola commosso? Messere, rispose il buon uomo, io ve dirò. Poiché io usai qui, ho io ogni dì veduto dar qui di fuori a molta povera gente, quando una e quando due grandissime caldaie di broda, la quale a frate di questo convento e da voi si toglie, siccome soperchia davanti. Perché se per ognuna 100 ve ne fiano rendute di là, voi ne avrete tanta che voi dentro tutti vi dovrete affogare. Come che gli altri che alla tavola dell'inquisitore erano tutti ridessono, l'inquisitore, sentendo trafiggere la lor brodaiuola ipocrisia, tutto si turbò, e se non fosse che biasimo portava di quello che fatto avea, un altro processo gli avrebbe addosso fatto, perciò che con ridevol motto lui e gli altri poltroni aveva morsi, e per bizzarria gli comandò che quello che più gli piacesse facesse, senza più davanti venirgli. Fine della sezione 11.